ancora una volta il cielo che sembra di vitrio alabastro, il mio occhio scaccia paure di non guardare l'orizzonte. Questo pomeriggio bronzo e mite mi ricorda il battito di un cuore che cerca gioie da altre vite, non si accorge del passare del tempo. Gioia di lucentezza, il mio corpo si trasmuterà, nuova sostanza astrale, il mio corpo cristallizzerà. L'amore mio scintilla, il mio corpo si trasmuterà, adesso chiaro brilla, dimensione d'eternità. Mi voglio ripulire da amicizie ormai infangate, da donne sol per nome disperate ad ogni